E adesso torniamo alla storia. Yes, let's go back to the story. It's the end of lunch at the Black Rooster. And what do you have at the end of a meal? Un caffè. Solo due nuove espressioni. Le ripeta la seconda volta. Severamente vietato. Strictly forbidden. Severamente vietato. Al massimo. At most. Al massimo. Listen to the dialogue in which Sarah makes a big mistake. E adesso abbiamo bisogno di un caffè. Va bene? Per me sì. Anche per me. Oh, sorry, can I have a cappuccino, per favore? Un cappuccino! Dopo pranzo, dopo la Fiorentina e il Chianti. No, mi dispiace, è severamente vietato. Al massimo, un caffè macchiato.